è solo hip hop, è musica rap, fans danno consigli, ma con Titania comba, don di Nanda e balla va, don di Nanda, mette beat 3000, tra le righe e brighe, per le strade prove spade, quindi dormo per te, prepara le pale, prende le pile che si scava e poi si carica, si trova e poi si cuba e ci si cori, aio, testa, le stelle che si devono svegliare dovrebbero almeno, almeno, gli artisti che si dicono tali, tali che si dicono artisti, che discorsi di bla bla bla bla bla, resisti. Dolci dei su uomini gay, donne gay, uomini donne poi, uomini donne a yo, ho, PG, un pomeriggio pieno d'occhi da dipingere, verde acqua tra vedere e non bere acqua, Cerros, Cerros, Cerros.